Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Maurizio Messina. Buonasera. Maurizio Messina è amministratore delegato di Guerini Next, una nuova casa editrice nata dall'esperienza di Guerini e Associati, che tuttavia resta come casa editrice, ma questo nuovo ramo di edizioni ha una missione particolare che adesso Maurizio Messina ci spiegherà, una missione soprattutto rivolta alle aziende, alla realtà aziendale, al management, alla cultura delle risorse umane. È così, Maurizio Messina? Sì, esattamente. Circa un anno fa abbiamo fondato questa nuova casa editrice che abbiamo voluto chiamare Guerini Next, che è uno spin-off dalla Guerini Associati, che è un editore che è presente da circa 30 anni sul mercato italiano e che si è sempre occupato, tra le altre aree, anche dell'area dell'economia e del management. Un anno fa abbiamo deciso di rafforzare la presenza di questo marchio, dedicando una casa editrice indipendente, controllata dalla Guerini Associati, ma che avesse come missione proprio quella di occuparsi di questo specifico settore, di questo specifico segmento. Quindi un'attenzione particolare alla cultura d'azienda, alla gestione delle risorse umane, allo sviluppo del marketing, della pubblicità. Vuol dire che c'è domanda in questo settore, diciamo, gli uomini d'azienda leggono ancora, vogliono essere aggiornati, vogliono soprattutto capire in che mondo muoversi, un mondo che cambia rapidamente. Ma certamente il motivo principale per cui abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, che può sembrare anche un po' controtendenza in un momento nel quale dell'editoria certamente non si sente parlare con straordinarie possibilità di potenziale commerciale, assediata come sembra da tutte le alternative in termini di comunicazione e di informazione, abbiamo pensato che proprio perché il momento è particolarmente delicato, è un momento di grande confusione, un momento di grande tensione sia per le aziende sia nel mondo del lavoro, che fosse assolutamente importante riuscire a proporre al mercato degli strumenti di sintesi e di analisi dei fatti che stanno accadendo e che stanno accadendo così rapidamente e che tutto sommato, interessando il mondo dell'impresa e il mondo del lavoro, alla fine interessa comunque tutti noi. Quindi riconnettere in qualche modo la domanda all'offerta in questo settore ci sembrava doveroso e anche con un potenziale probabilmente da scoprire e da riscoprire. Ecco, anche perché la realtà italiana, l'economia, la società italiana è fatta di punti di forza e punti di debolezza. Si tratta di valorizzare i primi e cercare di limitare i danni dei secondi. Forse puntando proprio sulla ricerca dei punti di forza, le vostre scelte, le scelte editoriali, hanno messo in luce alcuni elementi. Possiamo per esempio fare qualche esempio: Bello, buono e ben fatto di Mauro Ferrarese, il fattore Made in Italy, marketing, comunicazioni e vendite. Questo è un libro appunto di Guerini Next che punta a sottolineare come è possibile valorizzare un marchio che ha già un grande valore come quello del Made in Italy. Ma sicuramente quello del Made in Italy è uno dei grandi temi, è uno dei grandi filoni, e poi tra l'altro siamo nell'anno di Expo e quindi in un anno nel quale si dovrebbe parlare molto di Made in Italy e certamente come punto di forza. A sottolineare questo è in uscita proprio in questi giorni un titolo sempre sullo stesso filone che è intitolato Brain in Italy, a sottolineare ancora di più il fatto che la specificità del prodotto pensato e anche quando è possibile, se è possibile, realizzato in Italia, aggiunge valore all'offerta e al posizionamento dei nostri produttori e delle nostre aziende. Ecco, sul fronte invece della gestione aziendale, della logica aziendale, quali sono i titoli che vorrebbe sottolineare, un titolo su cui puntare particolarmente? Ma dunque, da questo punto di vista, l'organizzazione aziendale e l'area delle risorse umane è sempre stata al centro dell'attenzione del marchio Guerini anche negli anni passati. Direi che in questo momento il mercato del lavoro, il mondo del lavoro e chi si occupa di organizzazione del lavoro all'interno delle aziende ha delle sfide straordinarie davanti. Possiamo sottolineare sicuramente due titoli che sono appena usciti per Guerini Next e che sono due traduzioni, cosa che è sempre estremamente impegnativa da realizzare sul mercato italiano, ma che crediamo valorizzi l'offerta del marchio, che sono un titolo di Edgar Schein, che è un guru delle risorse umane, che è intitolato L'arte di fare domande, e quindi racconta in che modo gestire la comunicazione, soprattutto interna all'azienda. E l'altro titolo, sempre rivolto all'organizzazione, questo più su un versante produttivo, è un titolo di Art Byrn intitolato Lean Turnaround, e che analizza i vantaggi dell'organizzazione lean, dell'organizzazione snella e leggera, che parte dai primi famosi progetti della Toyota. E questi sono soltanto due esempi di due titoli nuovi in area organizzazione. Beh, l'arte di fare domande mi sembra fatta apposta anche per chi fa delle interviste per radio, perché è importante fare anche le domande giuste, oltre che aspettarsi le risposte, che le risposte sono quasi sempre giuste, però fare le domande giuste che interessino il pubblico è certamente qualcosa di, non dico di complesso, ma che deve comunque richiedere attenzione. Leggerò certamente questo libro, che ha come sottotitolo peraltro Quando ascoltare meglio che parlare. Però il nostro mestiere è quello di parlare, quindi guardiamo un po' in avanti. Quali altri proiettili avete pronti da lanciare sul mercato nei prossimi mesi, in quali filoni particolari? Direi che abbiamo individuato alcune aree, al di là di quelle che ci vedono un po' più presenti storicamente, che sono quelle di cui abbiamo appena parlato, che sono certamente l'area della finanza, perché riteniamo che oggi impresa e finanza siano assolutamente inscindibili, e pensiamo soprattutto non alle grandi imprese, ma pensiamo soprattutto alle PMI, le quali oggi si trovano a dover affrontare delle situazioni di impegno finanziario che sono in molti casi abbastanza nuove. Abbiamo quindi alcuni titoli che si rivolgono per esempio al tema delle piccole e medie imprese in termini di ricerca di finanziamento e delle tecnologie e delle opportunità che oggi vengono offerte oltre la banca, e questo è proprio il titolo ed è un libro della professoressa Gervasoni, ma stiamo pensando anche per esempio alla finanza personale, e quindi stiamo pensando anche a titoli che possano insegnare alla gestione migliore delle proprie finanze, e questo è rivolto a un pubblico sicuramente più vasto. Quindi istruzioni per l'uso anche di un sistema anche finanziario che è certamente complesso. Ecco, Maurizio Messina, amministratore delegato di Guerini Next, proprio con questo rapporto con l'economia reale e anche con l'economia finanziaria, come giudica questo paese all'inizio di questo 2015? Ci sono tanti speranze, tanto ottimismo, qualcosa si muove, anche una certa domanda all'interno delle imprese, una certa voglia di fare, possiamo pensare di stare recuperando posizioni e quindi anche di recuperare la voglia di fare e appunto attraverso i libri di imparare? Ma io sono abbastanza convinto, e forse il fatto che abbiamo deciso con Angelo Guerini di intraprendere questa avventura e questa sfida, non essendo tra l'altro più neppure così giovani, e questo va sottolineato, risieda proprio nel fatto che c'è sicuramente una speranza, c'è una possibilità, c'è qualche indicatore che sembra spostarci verso l'ottimismo, sempre con grande cautela, ma io credo che qualsiasi forma di sviluppo e di miglioramento che riguarda l'economia e poi alla fine di fatto la vita concreta e quotidiana di ogni giorno deriva sempre dalla capacità e dalla voglia di poter imparare, comprendere e capire qualche cosa di nuovo ogni giorno. Ecco, c'è un tema di fondo che non va dimenticato e che mi pare che abbia spazio tra i vostri titoli, che è quello dell'etica nell'economia. L'importante non è solo crescere, ma è anche cercare di un'economia che sappia recuperare alcuni valori di fondo, alcuni valori che sono anche quelli della solidarietà, dell'equità, della capacità di creare un sistema che dia motivazioni positive alle persone. L'etica ha anche spazio tra i vostri titoli. Certamente, io tra l'altro sono personalmente molto convinto che l'etica possa essere anche un valore economico per un'azienda, perché abbiamo degli esempi tra l'altro molto, molto belli, molto buoni in Italia, di aziende che hanno posto l'etica al centro della loro attività e che attraverso questo posizionamento riconosciuto dal consumatore, riconosciuto dal mercato, hanno degli indicatori economici e finanziari assolutamente eccellenti. Sono nomi che conosciamo e che credo dimostrino come un'attenzione su questo versante sia sempre poi riconosciuta. Ecco, c'è un autore, mi sembra Massimo Folador, che fa parte della vostra squadra in questa prospettiva. Sì, certamente. Massimo Folador è un autore storico della casa editrice, è un autore tra l'altro che ebbe uno straordinario successo qualche anno fa con un titolo intitolato L'organizzazione perfetta, che prendeva spunto dall'organizzazione dei monaci benedettini e mutuandola all'interno dell'azienda. E Folador è una firma che è sempre molto attenta a questo aspetto e continua nel tempo a proporre questo modo di interpretare la vita e l'organizzazione dell'azienda. E magari spero di poterlo avere ospite in una delle prossime puntate di questa rubrica, spero con Maurizio Bessida, come dicevamo, di aver fatto le domande giuste per delineare questa nuova iniziativa editoriale. Complimenti a Maurizio Bessida, buonasera e grazie di essere stato con noi. Bene, grazie a lei e a quelli che ci hanno ascoltato. Grazie ancora, appuntamento con Economia in Pagina per i nostri ascoltatori e per sabato prossimo.